avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un pas. Due cose non farò mai nella vita: cantare e ballare. Per me la peggior tortura è portarmi in un locale dove c'è il karaoke, che bisogna cantare e ballare. È stata una delle più tremende esperienze della mia fanciullezza, della mia adolescenza, adesso che sono grande e posso fare le mie scelte senza sentirmi menomato. Evito accuratamente di cantare e di ballare, non so perché, la natura in questo campo mi ha dotato in maniera molto scarsa. Però oggi pare che il cantare, l'esercizio della qualità canora, sia una comune facoltà che tutti possono applicare. Lo vedo dal talent show, che è diventato un strumento di misura dell'umanità che passa attraverso la televisione, che investe dalle giovanissime e infantili generazioni. La televisione è piena, una volta c'era soltanto lo Zecchino d'Oro, era il regno dei mostri con cui ci beavamo una volta l'anno e ci dava ispirazione canterina per tutta la nostra stagione, con delle insulsaggini tipo il Cosacco Popoff, il Pulcino Ballerino e i 44 gatti. Oggi il talent show infantile è diffuso in reti concorrenti, ci sono questi ragazzini dopati vocalmente, che sono degli sgricciolini, magari hanno già la voce da tenore, da baritoni, perché evidentemente gli fanno delle operazioni di incupimento della loro vocalità per farli già sembrare grandi, per farli crescere in fretta, perché i minori in televisione dopo mezzanotte non possono essere più esposti, quindi quando crescono anticipatamente possono essere usati a tempo pieno per la televisione. Poi c'è il talent show, che è diventato nella sua forma più felice l'esposizione della cialtroneria dei provini. Tanto più è divertente prendere in giro le persone che hanno velleità canore quanto poi vederle veramente trionfare o vincere in una gara canora. Questo mi sembra che sia abbastanza diffuso anche nella società. Oggi tutti cantano, tutti sanno cantare. Esistono sistemi individuali che aiutano anche le persone che non sono naturalmente dotate, un'infinità di applicazioni, di piccoli software permettono di trasformare anche un semplice tablet, un telefono cellulare, in uno strumento di accompagno alla propria velleità canore. Quanto voi avete facoltà, possibilità, talento di rappresentare il vostro stato d'animo cantando, quanto vi piace vederlo fare agli altri, quanto avete seguito nel corso della vostra esistenza quella che è la fulminante carriera di grandi cantanti, che molte volte veniva rappresentata attraverso lo strumento più potente, l'epopea che ha la contemporaneità, che era appunto il cinema. Contento, bellezza? E i trucchi del vecchio Fred funzionano sempre? Sei un tesoro, meriteresti un bacio. E dammelo. Prenditelo. Accidenti. Andiamo bene, andiamo. Ma guarda un po' le volte l'apparenza come incanto. A vederlo così sembra una persona in giro a modo. Un uomo, sì, insomma, un uomo. E invece, ragazzi, come di lago. È bilaterale. Come sarebbe a dire? E non lo vedi che pirateggia? A druatta, a gusci. Un abito di gatola, pistola nel gilet. Ad ogni partita rischiamo la vita. Chi vuole un po' di rogna su del Giuseppe Sanzon, che è particolarmente dotato di facoltà canore, questa mattina mi accompagna in questo viaggio attraverso un genere cinematografico, quando ancora la televisione era abbastanza limitata, gli spazi canori, a parte Sanremo, a parte alcune manifestazioni, non erano così invasivi e soprattutto non erano aperte alla gente comune. Allora cantavano soltanto i cantanti. Oggi chiunque può cantare. Il mio canto assomiglia al latrato di un cane lupo, per inciso. Comunque questo invece era Noi Duri del 1960 di Mastro Cinque, con uno strepitoso buscaglione, questa scheggia di hardboiled americana nato all'ombra della mole, qui alle prese con Totò. Lui fa l'agente CIA e Totò invece con la solitaria iaghesca col fez da scaro fa il narcotrafficante. È un pretesto il film per dare modo a Buscaglione di esibire le sue virtù canore, appunto, che rievocano quel mondo del cinema americano di quegli anni, di Bogart, dei Knight, delle atmosfere fumose. Però la qualità di Buscaglione era quella di rimanere sospeso fra mito e parodia del mito, rimanendo poetico, autentico, senza mai risultare posticcio. Il genere cosiddetto musicarello, ancora non lo stiamo lambendo, ma fu un genere molto importante per dare visibilità attraverso il nuovo strumento che era la televisione negli anni del boom dei cantanti emergenti. Loro venivano chiamati soprattutto gli urlatori, ma erano Gianni Morandi, erano appunto in parte anche Buscaglione, anche se una generazione precedente. Sì, gli urlatori. Come erano strutturati questi film? Beh, questo comunque vive anche della sceneggiatura di Dino Verde, quindi è pieno di sottigliezze, molto articolato. Ci sono Paolo Panelli che fa da spalla, già solo vederlo vestito da gangster, insomma, la Peter Lorre, la Edward G. Robinson, Paolo Panelli, e l'effetto comico è immediato. Poi c'erano luci bianco e neri molto contrastati, luci intense. C'era ancora un cinema molto forte. Siamo anche nell'anno della Dolce Vita, questo forse è una sorta di costola della Dolce Vita parallela e laterale, ovviamente molto leggero, molto brioso. I musicarelli a venire saranno poi una tragica sequela di Laura Efrikian, questa perennemente tisica donna che langue alle spalle del Morandi, garrullo con quelle sue mani gigantesche da orango, e Nino Taranto che fa il padre, lo zio, il nonno, il caratterista che dà un po' di sapore a queste anemiche, appunto, anemici musicarelli. 800 24 00 24, avete una memoria delle rappresentazioni negli anni passati del cantante, del divo che passava attraverso il cinema? Erano film che in realtà raccontavano labili storielline legate intorno a una storia d'amore. Mi ricordo il tempo di Morandi, ci furono film dedicati a Morandi di quando faceva il servizio militare. Morandi stava sempre in caserma, però aveva fatto anche lui, anche perché erano film visti da gente che stava al militare spesso, no? Erano sì, tipici lì. Film da caserma, ci andavano i soldati tutti assieme, uno esce dalla caserma per ritrovare la caserma anche sullo schermo, insomma, c'era un cortocircuito. Erano queste storielline, e con una formula simile a quella del musical o al film di Bollywood, che ogni tanto si metteva a cantare e cantava la canzoncina, la gente era tutta contenta. Sì, l'urlo, cioè la voce elevata a potenza, è uno degli aspetti più singolari del genere umano. Si urlava infatti fin dagli albori dei tempi. Traditore, riprenditi le tue lettere. Mettelo per sempre al bando! I cantanti urlatori! Hello! Adriano! Cosa vuoi, americano? Che termine vetusto, inconsueto, antico. Chi si ricorda ancora più degli urlatori? Gli urlatori era la definizione della media società perbenista e conservatrice nell'Italia del momento favoloso della crescita, per una serie di cantanti che uscivano e avevano una espressione, un'ampiezza vocale che usciva fuori da vecchi antichi cantanti melodici. Singolare che tra questi poi il principe era Celentano, oggi il grande moralizzatore, è la vasellina ideologica che entra dappertutto, che cementa dappertutto, che ispira i sentimenti migliori. Allora era il rappresentante della rivolta. Sì, oggi è un San Francesco predicatore pieno di pause dilatate e anniclenti spesso. Però qui, questo invece è Urlatori alla sbarra del 1960, il film che offre l'occasione all'anarchico Fulci di mettere insieme un cast strepitoso con Chet Baker, privo di un incisivo, molto fatto, adagiato in una vasca con dietro appunto la tradizione Nilla Pizzi appesa nel bagno, e lui chiama Celentano, e si stanno esibendo in questa casa che appartiene a Mario Calotenuto, che invece farà parte del censore bernabeiano, che detesta questo tipo di musica, detesta gli urlatori, detesta anche La Traviata perché lo trova un titolo sconcio, quindi c'era tutta questa parodia, insomma, di un mondo democristiano che si opponeva all'innovazione degli urlatori, appunto. Sì, perché erano già i primi sintomi di quello che sarebbe stato il movimento La Contestazione, poi lo spazio temporale è piuttosto labile. Primi contestatori si rifacevano comunque a quel modo d'essere che contestava la società degli anziani, una sorta di rivolta giovanilistica. Poi quei giovani diventarono i più cocenti rappresentanti del pensiero conservatore. Marco, buongiorno. Buongiorno Alessi, e complimenti veramente. Mi ha ricordato un'epoca, io ho 60 anni, ricordavo un'epoca dei cosiddetti film musicali, Little Tony, ma è stato per esempio... Sì, Little Tony era favoloso, fece un film in cui faceva il pilota di Formula 1, con le macchinette di quel tempo, ecco. E lo ricordo, e ricordo anche questi film di Morandi, Non sono degno il piede. Mi pare che tra l'altro conobbe Lila Efri, che anche poi sposò e poi, vabbè, poi in seguito si divorziò. Ebbene, io volevo dire questo, in quei film io ricordo, tipo Vittorio Congia, dei caratteristi veramente bravi, veramente bravi, che facevano piccole parti. Lei si ricorda perché si andavano a vedere questi film? Ma io a quell'epoca, le dico la verità, in quegli anni non avevo, adesso avendo 60 anni ero ancora molto molto giovane, io andavo a vedere quei film, ma non tanto per sentire i cantanti, ma perché c'era quell'aria di caserma che poi dopo mi avrebbe aspettato, perché in quegli anni io avevo più o meno 15-16 anni, quindi aspettavo quasi con ansia. Però erano anni in cui intelligentemente colpivano un target ben preciso, tutti gli italiani facendo il militare, poi cominciarono a scamparla, a evitarlo, nacque il servizio civile, l'obiezione di coscienza, quindi comunque sapevano che quella bella balda gioventù avrebbe avuto al periodo, non era un anno ma erano 18 mesi, quindi era un periodo lungo, un periodo di coatta astinenza dal mondo della leggerezza, perché la vita militare non era certo molto divertente, erano strapparli alle mollezze familiari, quindi avevano pensato un genere mirato per loro. Attenuava la durezza della vita militare, appunto, quindi identificarsi nei vari Littletoni, nei Gianni Morandi, appunto. Sì, poi la vita militare del medio marmittone italiano era uno sdolcinato crogiolarsi su amori, cioè ci si accorgeva di essere sempre innamorati, non c'erano i telefonini, non c'erano i cellulari, bisogna fare lunghe file nelle cabine con i sacchetti di gettoni nelle tasche e la ragazza lontana, che naturalmente si consolava ampiamente con tutti gli uomini di fatica che aveva nel circondario, diventava questa idealizzazione dantesca di un amore lunghissimo, eterno, impossibile. Però la malaticcia e Frickian poteva essere idealizzata perché appunto era quasi asessuata, insomma, questa laurea petrarchesca in minore. Allora, Luciano, buongiorno. Pronto? Pronto. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Non mi chiamo Luciano, io mi chiamo Orazio, volevo parlare dei film di Luciano Taioli. Ah, scusi, mi hanno scritto Luciano, hanno sbagliato. Ecco, lei si chiama Orazio, beh, Orazio è un bellissimo nome, marito di Clarabella, figuriamoci, immarcescibile nella mia memoria. Allora, mi dica Orazio. Allora, se vi ricordate i film in bianco e nero di Luciano Taioli che contava, e naturalmente doveva sempre essere appoggiato a una sedia o qualcosa perché aveva dei problemi di deambulazione, poveretto, no? Ed era un bianco e nero veramente bello da ricordare adesso. Ma di che anni parla lei? Lei parla di anni un pochino addietro, secondo me. Adesso... anni 50. Sì. Cantava Mamma Taioli, o sbaglio? Cantava Mamma, ma cantava anche altre canzoni di cui adesso non ricordo. Guarda, io già ho piede nella fossa, ma allora o non ero ancora nato o ero talmente piccolo a non andare al cinema. Però diciamo il genere lo ricordo perché ci sono dei fortunati momenti in cui la televisione mandava questi film in orari impossibili o i pomeriggi dell'estate per le nostre nonne. Quindi comunque era anche lì l'inizio di un genere in cui ancora non c'era la rappresentazione del giovane scavezzacollo, dell'antagonista del tempo, ma erano film in cui il grande cantante aveva un suo ruolo romantico, drammatico nel corso di una storia. Va a lambire il melodramma, no? Con storie strappacuore, col vilain che appunto insidia la donna. Anche della sua vita e del suo handicap di quando era bambino, l'aveva raccontato così il film anche. Ma si appoggiava alla sedia simulando diciamo una sua capacità di muoversi tranquillamente, però raccontava come era accaduto quello. Mi dice qualcosa che non conosco, quindi la sto ascoltando con grande attenzione. Il film raccontava la sua vita. La sua vita. E come era successo che si era fatto male? Ma penso che avesse avuto la cosiddetta paralisi infantile a quel sì, tempo. Era una patologia molto frequente, certo, sì. Certo, certo. Grazie, andiamo avanti. Per prima cosa dovete rendervi ben conto degli elementi base della musica. Ricordatevi che nella musica si debbono innanzitutto distinguere il canto, l'armonia e la melodia. Il ritmo è una suddivisione del tempo. Senza ritmo non si può concepire la musica. Prendiamo ad esempio una canzone qualsiasi. Lasciamo in questo caso completamente da parte l'armonia e la melodia. Ecco, leggete la prima riga. Mia serenata vola nell'aria, va a cantare nel blu. Ecco, nella vita voi questo lo dite con l'inflessione del normale linguaggio. Nella musica invece l'accentuazione cambia completamente secondo... Qua stiamo sfiorando l'assurdo, dobbiamo dire cosa c'è dietro. Queste due fini dicitori in realtà sono Albano e Romina, doppiati nel film che suggellò la loro storia d'amore, perlomeno detto l'inizio. Me lo ricordo, vediamo se ricordo bene, non ho visto la scheda, giuro. Era un film pacchiano terribile, lui in abiti ottocenteschi, un film in costume, Perché è ottocentesco? Perché lui aveva degli occhialini, i famosi occhialini da Albano, occhialini leggermente cavuriani, però rettangolani, quindi per contestualizzarli l'hanno vestito ottocentesco. Albano, il pugliese Albano, il tuo conterraneo, senti come parlava, gli hanno doppiato per non dare l'oscenità, ancora veniva considerato un disvalore non parlare un italiano perfetto. Beh, il tragico accento di Celino San Marco non poteva adeguarsi al personaggio di Schubert che lui incarna, Franz Schubert, che spiega alla contessa, alla contessina Anna Roscoff, questi due giovani stoccafissi in fiore nella regia fossile di Fizzarotti interpretano, insomma, questa storia che, appunto, come diceva l'ascoltatore prima, priva di caratteristi, naufraga nella noia, nella melassa insostenibile. Però c'è il momento hard di Albano Schubert che reinterpreta appunto l'Ave Maria, quindi senza limiti, senza pudori. Si chiamava Angeli senza paradiso il film. Ecco, abbiamo una sorta di deriva del pubblico verso Luciano Taglioli, anche Beppe deve parlarci. Luciano Taglioli, Beppe. Sì, buongiorno. Eccoci. È una piccolissima curiosità, ho sentito per caso mentre ero in macchina che accennavate Luciano Taglioli, e c'è a Milano un ristorante, che una trattoria che si chiama Il Taglioli. Sanno i tagliolini quelli che si fanno col brodo? No, in Valsuga, è in via Valsugana, angolo via Brembo. E questi qua ha tutte le cassette di Taglioli, i video, mangiando uno può sentire tutta la musica di Taglioli che vuole. Potremmo rasentare l'estasi dei sensi. Vabbè, grazie Beppe, ci fa molto piacere. Emiliano. Sì, buongiorno, io sono un cantante lirico di professione. Sì. E volevo quindi sottoporre alla vostra attenzione anche due film. Uno che mi permette Babbo, di Alberto Sordi, che parlava prima, vista che avete citato. Com'era il primo titolo? Mi permette Babbo, di Alberto Sordi, un film con Alberto Sordi, e parla appunto delle vicissitudini di un cantante lirico, visto che avete accennato anche al melodramma, volevo solamente sottoporvelo alla vostra attenzione, e parlo appunto delle vicissitudini di un cantante lirico squattrinato che si fa dare lezioni di canto da un maestro pagandolo con del vitello, con della carne, e parlo appunto di queste vicissitudini. Il maestro di canto che viene a cui viene pignorato il pianoforte, e lui dice, mentre il pianoforte sta andando fuori dalla casa, che il pianoforte lo sta portando ad accordare. Lei in quanto cantante conosce questi aspetti un po' micragnosi della vita dell'artista, che molte volte non è corrisposta da una fortuna economica? Sì, a parte questo, ma il problema è che il nostro mondo è crollato da sedicenti maestri di canto, che poi fondamentalmente maestri di canto non sono, e che passano il tempo di una lezione a dirti che sei un bravissimo solista, che sei sprecato nel coro. Io sono un corista di professione, canto nel coro del Teatro Regio di Parma, e passano la vita a dirti che sei un solista solamente perché ti danno la possibilità, anzi hanno la possibilità, di avere ancora maggiori lezioni da parte tua, perché sei galvanizzato, e poi fondamentalmente invece magari non hai la voce nemmeno per dire buongiorno. Poi ci sono osceni fenomeni come i tre piccoli tenori, che io ricordo che molto spesso in televisione li fanno apparire, tre bambini dopati che dimostrano 70 anni l'uno, che cantano con voci da adulti. Esattamente, e poi la parodia c'era di Aldo, Giovanni e Giacomo, che facevano i tre tenori. Senta, ma lei che mi spiega questo problema, come mai i bambini adesso hanno la voce da adulti? Ecco, il problema è questo. Cosa gli fanno? Cioè, le voci bianche al contrario, una volta li castravano per farli cantare tutta la vita come ragazzini. Allora, io ho iniziato la carriera nel coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, cioè il coro del Papa, e a un certo punto... Ma ha rischiato l'amputazione? No, non si fa più. No, non si fa più. No, assolutamente. Però l'hanno fatto fino a poco tempo fa. Fino a quell'anno. Fino agli inizi del Novecento, su per giù, se vogliamo. E a un certo punto si arrivava a 12 anni che c'era il cambio della voce, c'era la muta. Per cui a 12 anni noi uscivamo fuori dal coro e ci si rivedeva a 18 o 20 anni. Beh, è andata bene, se fosse vissuto qualche decennio prima, l'alternativa c'era per rimanere in quel periodo felice da voce da sopranista. Sono molto più felice così. Me lo immagino. E invece adesso io vedo che a 12 anni, 13 anni i bambini continuano a cantare, e questo, io quando ero piccolo io sapevo che questo era deleterio assolutamente per la voce, e continuo a pensarlo, quindi non so poi a 18 anni che voce abbiano. Vabbè, evidentemente il mercato dello show televisivo, che deve mantenere cantanti che facciano tenerezza perché sono bambini, anche se ormai hanno baffi e basette, fa sì che li mantenga in uno stato di castrazione catodica eterna. Giuseppe Sanzoni. Beh, c'era l'altro film bravissimo con Alberto Sordi, cialtronesco, col bambino maestro, che cantava, bambino sì. Che aveva questo... Se lo ricorda quel film, Emiliano? Sì, adesso non ricordo il titolo, c'era il bambino bravissimo, con la bravissimo, bravissimo. Che poi gli passa la voce e finisce l'affare per Alberto Sordi. Gobbi, e gli davano le alici, perché le alici pare che asciughi il muco in mezzo alle corde vocali e quindi dia questa possibilità. Ed era la voce di Tito Gobbi. Guardi, l'ho visto fare non più tardi di qualche mese fa un collega della radio, gli hanno detto di mangiare le alici, l'ho visto andare a vomitare dopo pochi istanti. Sono cose che sono le ricette della nonna che rimangono così nell'aria, ma non le consiglio a nessuno. Grazie, tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Pronto? Posso salire? Come? Sei ancora qui? Cos'è successo? Credevi di esserti liberata di me, eh? Vieni su, ma fa presto. Beh, dammi un po' di tempo, ho dimenticato di dirti che sono ad Atene. Ah, va al diavolo. Non hai nient'altro da dirmi? Sì. Che sono tanto felice di sentirti. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo. Ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu, hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, dici che non ci sono. Che vomito. Ma dimmi, sai scrivere di già? Pensa la mamma dentro la vasca, con lo spazzolone che se la sciacqua, e la bambina che parla con lui. Dunque, stiamo parlando dei film musicarelli, stiamo parlando dell'epopea, della canzone in tutte le sue gradualità, questa della strappalacrime sentimentale trasgressivo, Modugno con Piange il telefono, questa innocente bambina, in televisione veniva messa sempre grande, enorme, nello schermo, e lui faceva questa canzone strappalacrime, lui non so adesso esattamente quale fosse la storia, sa che la mamma non voleva più, dice sempre, digli che non ci sono, e la bambina naturalmente infame, lo ridice a Modugno, di che si tratta? Questa è una voce, appunto il film è Piange il telefono, ma la voce da androide, da horror di Fulci della bambina, hai notato che non è una voce infantile reale, è stata modificata. Eh no, è un'adulta che faceva voce alla bambina. È perturbante, e offre il fianco alla gola spiegata di Modugno, di Mister Volare, con i suoi baffetti, il suo papillon, e questo sentimentalismo sempre aperto, sempre slanciato. Infatti lui nasce anche come attore, oltre che come cantante. No, ma lui ha fatto il centro sperimentale per fare proprio recitazione, infatti appare, lui ha lanciato Franco e Ciccio in Reinaldo in campo, in quella rivista che faceva con delle scala in giro per l'Italia, era a tutto campo, no, appunto, il sentimentalismo era un po' alla base di tutto quanto, di tutta la sua poetica, e questi primi suoi film, questi musicarelli particolari, c'era anche la spinta molto legata al melodramma che abbiamo già affrontato, ti ricordi? Noi eravamo piccoli, andavamo a scocciamo, Piange il telefono e ride il citofono, pensa che stupidaggine. 800 24 00 24, stiamo ricordando i momenti più scellerati della nostra esistenza, vi abbiamo sottoposto questa ricetta sicura per il raggrizzimento gonadico, ma andiamo avanti con Piero. Sì, ciao, buongiorno. Sì. Io telefono a Firenze. Negli anni 67-68 io ero un batterista già professionista e suonavo nei gruppi, quelli già buoni che giravano, perché a quell'epoca c'era la divisione, comincia a esserci la divisione fra cantanti e capelloni. Lei era un capellone, Piero? Io ero un capellone, sì, avevo 18 anni. E oggi? 40 centimetri di capelli. Adesso sono sempre capellone, suono ancora. Ah, sei di quelli che ancora, diciamo, capelli bianchi, porta capelli lunghi da giovane. Sì, esatto, sì, un pochino... Un po' tipo Marzullo. Una cosa della quale non avete parlato è che innanzitutto col Festival di Sanremo di Romantica finiscono i cantanti melodici. C'è un'Eugenia Foligatti con Amor, Mon Amour, ma poi dopo Little Tony, 24.000 baci, Volare, nascono... nasce un altro filone di cantanti, e che la manifestazione più importante dell'epoca dopo non era più il Festival di Sanremo, era il Cantagiro. Il classico Cantagiro. Questi, tutti Cantagiro. Quelli che ha elencato nascevano dal Cantagiro, è vero? Esatto. Toni Dallara. Negli anni 68, io mi ricordo perché ci suonavo, a Genova ci fu la grande rivolta contro Claudio Villa, che fu lo spartiacque, fu una sorta, era l'oltraggio a una gloria nazionale, l'oltraggio all'epoca ai giovani, l'oltraggio a tutti. E quando cominciò il lancio di pomodori, mi ricordo proprio a Genova, lui si aprì davanti il petto come pronto alla fucilazione e fu massacrato, che fece vedere pomodori. Il catenone d'oro che portava al collo. Il Reucci di Trastevere, la motocicletta con la mamma con il paniere dell'ova, e queste cose qui fanno veramente, danno a quel momento lì la fine di un'epoca. Finisce l'epoca dei cantanti, e per fortuna, e oggi è finita anche l'epoca, grazie a Dio, anche dei. Poi Paolo Limiti però ha rivivificato i morti viventi, cioè ha rievocato tutti i vari. Sì, fece cantare Claudio Villa con la figlia, come fece Nartin Cole, fece Sinatra, una sorta di esempio. Romero della TV italiana, una tribù evocativa nei cofili. L'epoca era divisa da, o almeno il Cantagiro, gli anni, un anno sì, un anno no, era divisa fra Morandi e La Pavone. Sempre, inevitabili, si dividevano gli altri. La Pavone fece di più, Lina Wertmüller gli fece fare il Gian Burrasca, fu una grande apologia televisiva, improbabile. Lei era veramente Rita brava, la Zanzara. Io ci ho lavorato con lei, era veramente brava, sì. Brava. E lo dimostra ancora facendo questo mezzo jazz, mezzo blues. Sì, sì, ma lo è ancora vivo. Ancora brava, sì. Anche Teddy Rehner è vivo, sono tutti ancora vivi e vegeti. Paolo, buongiorno. Paolo, ha una notizia, ha un brandello. Buongiorno, sì, dunque, in realtà sì, ho un brandello di memoria che mi avete risvegliato facendo sentire quella terrificante canzone Piange il telefono, avete riassumato sto cadavere. Lei conosceva la bambina? Ma dunque, in realtà è una leggenda metropolitana che correva nella mia scuola media, la scuola media Francesco Petrarca di Roma, sì. In cui risultava che la bambina, che dovrebbe essere una bambina reale, e doveva presumibilmente chiamarsi Francesca Guadagno, adesso. Io purtroppo sono in macchina, quindi non posso verificare su internet. Guardo subito. Però, un fatto noto questo qua, ed era la figlia, era attribuita alla figlia del mio vicepreside, che era professore, non mi ricordo che, in questa scuola media degli anni 70, terrificante, in cui facevamo i tripli turni. Ha un sito ufficiale, Francesca Guadagno. È una signora. Fantastico. Potrebbe avere l'età, una bella signora, capelli mori. Dovrebbe avere una cinquantina d'anni. Sì, sì, ben portati, devo dire. Francesca Guadagno. Francesca Guadagno, inizia la carriera all'età di 4 anni, quando vince il provino per lavorare sul set del film Lo chiameranno Andrea, al fianco di attori di calibro Vittorio De Sica, Mariangela Melato. Poi piange il telefono. Piange il telefono, ha ragione, piange il telefono. Quindi è una bambina vera ed è effettivamente la figlia del mio vicepresidente. Da allora fantastico. La sua carriera artistica non conosce battute d'arresto, alternando alle esperienze teatrali cinematografiche e quelle di doppiatrice, famosissime attrici. È una bella donna, si guarda, la guarda Francesca Guadagno. Quella bambina è venuta questa succosa signora. Aveva questa voce da androide da bambina. No, vabbè, ma era terrificante. Cioè, poi tutto il contesto, poi per noi faceva ridere. Eravamo piccoli, però ci rendevamo conto del contrasto, ci faceva ridere il contrasto fra lei, la figlia che faceva sta canzone cretina, e questo serissimo vicepreside, professore di qualche materia seriosissima. Chissà cosa nascondeva, se aveva queste ambizioni. Ecco, Francesca Guadagno mollemente adagiata contro un tronco d'albero, Francesca Guadagno generosamente scollata che guarda lo schermo con uno sguardo rapito, Francesca Guadagno dalla pingue braccione in primo piano, che ci guarda con sguardo rapito. Ma è una bella donna, però, Francesca. Guarda, diresti che dietro questa bellissima. Non me l'ho sputtanata. No, perché? No, le abbiamo fatto una grandissima pubblicità. Quella bambina esile, gracile, dalla mamma perennemente in ammollo. Oggi una matrona questo romana. Questo miracolo della natura, una signora romana, cresciuta matriciana. Vediamo che dietro ogni sofferenza, alla fine, c'è una maniera di uscire. Marco, avanti. Marco, non avete anticipato. Sì, l'argomento del giorno è diventata Francesca Guadagno. Beh, andiamo avanti. No, ecco, dica. Il telespettatore di prima, la radioascoltatore mi ha anticipato, oltre alla Francesca Guadagno, per cui niente. Lei sapeva questo dato a noi sconosciuto? Sì, lo sapevo, anche perché, data la mia veneranda età, ormai la conoscevo. Beh, lo sapevo anch'io, però non sapevo niente. Vi ringrazio. Ha doppiato anche Heidi. Sì. La voce di Heidi è Francesca Odagno, vede? Fantastico. Trovare un nesso sottile però fra la bambina che piange il telefono e Heidi che con le caprette che fanno ciao, non c'è è il lacrima movie che incombe sempre, lo strappalacrime, il melodramma spinto, estremo, hard, è sempre lì, dietro l'angolo, in agguato. 800240024, fermiamoci un istante per dare le informazioni del traffico con la speranza che Francesco Odagno si faccia viva e ci racconti in retroscena il di questa sua fantastica esperienza fanciullesca. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sky, Akatiushka, Polyushka, hey! So che dovrei dirvi di questa canzone Celentano, ma un istante solo. Le mie ricerche approfondite su Francesca Odagno hanno scoperto che anche la voce di Tutti pazzi per Mary, Cameron Diaz, fa Mary, la famosa scena del gel sui capelli, è la voce di Francesca Odagno. Ah, è una scoperta, un cortocircuito incredibile. Più andiamo avanti, più scopriamo cose. Piange il telefono al gel di al gel di Tutti pazzi per Mary. Invece abbiamo ascoltato il pezzo di Urlatori alla sbarra in cui Celentano canta la canzone che gli ha scritto per lui Lucio Fulci insieme a Vivarelli, in cui si parla di Nikita Khrushchev. Non sarà chic ma ti fa venire lo shock quando senza dire manco niente mette in orbita un lulic, una canzone che per l'orologiaio milanese che era all'epoca prima di esplodere Celentano, Fulci crea e quindi diventa il pezzo forte di questo musicarello strepitoso. Khrushchev è una citazione naturalmente allo spirito dell'epoca, gli anni in cui giravano le medaglie con i tre profili, Kennedy, Khrushchev e Papa quando Giovanni. Quando batteva col tacco della scarpa le Nazioni Unite, creando lo sconcerto. Gabriele. Buongiorno. Eccoci. Senta, volevo chiedere, volevo dirvi anzi, che ci stanno delle trasmissioni come la vostra, bellissime, che qualche volta sono molto delicate con questo periodo, con i cantarelli in questo caso. Invece certe volte un po' si criticano, forse giustamente. Ma perché la gente è spietata, senza cuore e non ha rispetto per il passato. Bravissimo. Dico questo perché a proposito di cantarelli oppure di quel periodo, io sono del 50, mm-hmm. E in quel periodo avevo 17 anni così, e recentemente parlo di qualche mese fa, mi sono svegliato per più di una mattina con di vecchi amori dell'epoca, e così innamorato sono andato avanti fino a poco fa. E ho fatto delle ricerche, sto parlando di cantarelli, sì. Oppure di questa generazione, quindi 60 anni e qualcosa in più, che ha bisogno anche di un ritorno a quel periodo, però con delicatezza. Certo, tanta gente prende brutte cattive droghe per avere lo stesso effetto, lei c'ha i musicarelli, si figuri, che in fondo non fanno male, non danno dipendenza, non nuociono la salute, quindi Gabriele ne faccia il miglior uso senza naturalmente abusarne. Allora, io mi chiamo Checco e faccio il cantante. Volevo innanzitutto ringraziare Giulio, il proprietario del locale, e dirvi che questo è il mio primo concerto milanese. E la canzone è una canzone che io la dedico sia a mio cugino, ma anche a tutta la gente che hanno il suo problema, a tutta la gente meno fortunati come lui. E lo faccio nella speranza di aiutare la ricerca anche per questo tipo di patologia. Quanta cattiveria dentro a questa società, nei confronti di chi tiene un'altra sessuità. Quanta gente che vi ingiuria, quanta gente che vi attacca, solo perché non vi piace la patacca. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. senza nulla togliere al suo talento, un gran furbacchione Checco Zalone, perché ridendo il genere, ridendo il personaggio, ridendo diciamo il contesto, in realtà fa un vero e proprio musicarello che anticipa il suo successo. Diciamo, lui attraverso un musicarello diventa quello che in realtà non è, un cantante che si fa faticosamente strada in una società che lui misura con i suoi parametri arcaici. In questo caso va dal cugino omosessuale, lo porta in locale gay a cantare, lui fa questa canzone, dovrebbe essere nella sua ottica politicamente corretta, ma è terrificante. Il fenomeno Checco Zalone, che poi in barese vuol dire Checco Zalone, vuol dire che cafone, che brutale, insomma, e nasce Luca Medici, nasce appunto in televisione parodiando i cantanti, demolendo definitivamente Jovanotti con la sua S Sifolina e tutto il repertorio Ramazzotti. Qui approda in un film che ha una sceneggiatura, un arco, e il pugliese sboccato, triviale, appunto preistorico, che arriva a Milano in questo locale gay chic, crea lo sconcerto cantando questa canzone che nella sua sincera volgarità e brutale scardina tutto, mette tutto un po' in discussione. Si innamora della figlia di un leghista, va orina nella provetta dell'acqua del Po, che porta le orecchiette, è un film che diciamo molto legato a un'attualità che poi sta lentamente scemando da un'altra attualità che la sta sovrastando. Io ho sempre voluto cantare. Mi ricordo che da bambino mio padre si incazzava e io cantavo ancora di più. Mi picchiavo e io cantavo ancora di più. Io me li ricordo i microfoni a giraffe. Mi ricordo Mina, Walter Chiara, Alberto Ruba, Alberto si schiattava di risate con me. Mi ricordo tutti i teatri dove mi sono esibito, tutte le canzoni che ho cantato, tutti i camerini, tutti i flash dei fotografi, le dediche sui dischi, gli autografi, le tournée, i ristoranti, le risate, le lacrime degli spettatori. Non la sento più la radio che sentivi sempre insieme a me. La casa non è più poi casa mia. La notte mi lascia. Giuseppe, in che passaggio siamo su questo filone che stiamo raccontando? Questo è L'uomo in più di Paolo Sorrentino del 2001. Qui Servillo interpreta Tony Pisapia con le sue camicie sgargianti, il lungo colletto sulla giacca chiara, la faccia incanaglita dalla cocaina e il Ballantines sempre in pugno, ovvero un animale notturno da night ispirato a Peppino Gagliardi e un po' a Califano, che vive all'apice, colto all'apice del suo declino, cioè all'inizio degli anni Ottanta, vive insomma una caduta a causa di un rapporto con una minorenne che lo incrimina. Insomma, qui racconta questi cantanti confidenziali sempre sospesi fra poesia e brutalità e mondo notturno e feroce, insomma. Quindi, diciamo, ecco, per tenerci a un'attualità, o perlomeno un periodo un po' più recente, mi viene segnalato via SMS un musicarello fuori tempo massimo, la cui bruttezza è rimasta indimenticabile, Jolly Blue degli 883. Il gozzano del nostro tempo, Max Pezzali, che racconta questa provincia plastificata, lui che è sempre sembrato un 45enne anche quando aveva 17 anni, mescolato agli amici del bar, quelli della regola, dell'amico, che guardano appunto la donna più bella, che tutti cercano di darle una battuta, di attaccare il bottone, e poi lei va via con quello silenzioso, che però magari è ricco. Insomma, c'è tutto questo piccolo mondo, neanche tanto antico, però molto brutto e molto triste, che questa pavia metafisica che racconta Pezzali, e che ha fatto assurgere a musical in Jolly Blue, la sala giochi. Matteo, buongiorno. Buongiorno, salve. Io mi è venuto l'idea, cioè mi avete dato lo spunto facendomi sentire Piange il telefono, perché la mia infanzia dalle scuole elementari, dalle suore, è stata segnata da una serie di terrificanti film che ci portavano a vedere. Lacrima Movie, ne abbiamo già parlato, ci torneremo, è un tema molto pregno di ispirazione. Ma perché mi è sempre rimasto impresso, pur non essendo dei musicarelli, come si dice, quelle enormi, tronituanti colonne sonore che ti prendono, che avvolgono il film dove poi piangi. L'ultima neve di primavera fu epocale. Un'orge di archi che entrano, ti squassano all'interno. D'agosto, la bellissima estate che spingo mia moglie a vedere ogni tanto per averli registrati, e lei dice che avendo dei figli non si possono vedere questi film perché portano, fra virgolette... Ma erano fatti apposta, era perché uno dovesse accontentarsi e essere felice delle piccole cose che aveva, pensando che dietro l'angolo potesse esserci la morte, la distruzione, malattie improvvise, fulminanti patologie che ci portano via i nostri affetti. Stupisce che in certi film ci siano attori incredibili. Io mi ricordo uno visto in un cinema parrocchiale, si chiamava Il venditore di palloncini. C'era il papà dei fratelli Cusack, che ti domandavi perché fosse presente, oppure l'attore protagonista del giorno della civetta, ecco. Un autobonifico, questo è il motivo, un autobonifico in dollari. Diciamo che si investiva in questi attori perché erano film edificanti, che davano il senso del memento mori alla popolazione, doveva nel momento del boom, dell'accrescimento del loro benessere, ricordarsi che comunque doveva sempre morire e quindi votare le persone giuste. Arrivederci, grazie Giuseppe Sansonna, grazie agli ascoltatori, al prossimo appuntamento sansonaico. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.